Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. 8 milioni di studenti, di cui quasi il 10% stranieri, la metà nati in Italia. Il ministro Profumo dice: serve una scuola multietnica per integrare e non per ghettizzare. I programmi vanno revisionati a partire dall'ora di religione. Ministro Profumo sta confondendo l'ora di religione con l'ora di catechismo. L'insegnamento della religione è fatto, come dice la legge, secondo le finalità della scuola, quindi non ha come scopo quello di aiutare qualcuno a vivere una certa religione. L'Italia non ha una religione di Stato, ma è fatto con lo scopo di aiutare gli studenti a capire il mondo in quanto segnato dalla presenza delle religioni. I radicali si oppongono chiedendo l'abolizione dell'ora di religione. Concorda invece con Profumo la rete degli studenti e la FLC-CGL. Per lo stesso motivo per cui si studia maggiormente la storia di Roma che quella di Pechino, la guerra di indipendenze italiane che quelle americane, cioè si procede da ciò che è vicino verso ciò che è lontano. Da questo punto di vista l'ora di religione è un momento inclusivo anche per gli studenti che vengono accolti nel nostro paese e che in linea di massima accolgono molto bene l'ora di religione anche i non cristiani. La domanda che faccio questa mattina è: un'ora di religione ci salverà l'anima? Questa è la domanda fondamentale, perché se un'ora di religione è un'ora finalizzata probabilmente a sollecitare, a incrementare, a corroborare quelle che sono le aspirazioni verso l'assoluto degli studenti. Oppure l'ora di religione non è più un'ora di religione, ma è un'ora di storia delle religioni, di approfondimento della nostra cultura romano-cristiana, in cui il cristianesimo è fondamentale. La voce che avete sentito per ultima è quella del presidente dell'Associazione Insegnanti di Religione, Giribaldi, ma la vicenda è abbastanza nota perché è uscita sui giornali con ampio spazio. Il ministro dell'istruzione Francesco Profumo, girando per le scuole, si è reso conto che c'erano molti bambini non così facilmente riconoscibili nel nostro modello tradizionale di giovinetto italiano, e quindi ha detto: ma forse sarebbe il caso di vedere se questa ora di religione possa essere qualcosa più aperta e più comprensibile a tutti i ragazzi. Naturalmente c'è stata una profonda, radicale, viscerale, immediata, scandalizzata levata di scudi. Tutti hanno detto: non si tocca, la religione non si tocca. Il ministro ha fatto un passino indietro, ha detto: ma sì, avevo detto, avevo pensato, e la cosa è passata. Ma noi vorremmo ritirarla fuori questa mattina perché ci sembra interessante. Il mio punto di vista non è un punto di vista da mangiapreti, tirate fuori l'ora di religione dalle scuole. No, vorrei riflettere, vorrei capire innanzitutto cosa è rimasto di quest'ora di religione. Io mi ricordo, ai miei tempi si chiamava l'ora di dottrina, e quindi era inequivocabile cosa fosse. Veniva il prete e faceva un'ora di dottrina. Era una fantastica occasione per preparare le lezioni dell'ora dopo, per fare casino, per rilassarsi, per farsi una dormita, però era l'ora di dottrina. Altresì si chiamava dottrina tutto ciò che aveva a che fare comunque con l'istruzione di tipo religioso, finalizzata ai sacramenti, finalizzata alla vita sociale. Ma io parlo della vita in una piccola frazione, in una città della provincia italiana, negli anni 60-70, tutt'altra cosa. Oggi cosa rimane di tutto questo? Qual è il vincolo che accomuna nella quotidiana vita dei ragazzi il fatto che appartengono comunque a una comunità religiosa? Leggo un messaggio mandato sulla pagina Facebook Melog Radio 24, l'ascoltatore Massimiliano, insegnante, mi scrive: una volta a scuola spiegavo cos'erano i frombolieri nell'esercito di Roma. Ho detto: ovviamente per fionda si intende quella che fai girare e con cui lanci il sasso, non quella forcella dei ragazzini. Insomma, per farvi capire, quella di Davide Golia. Metà classe non aveva mai sentito parlare di Davide Golia. E devo dire, escusatio non petita perché sono ateo, dice l'ascoltatore, che mi ha fatto un po' effetto, perché se togliamo al nostro immaginario culturale le sue due fonti principali, cioè il racconto biblico e la classicità greco-latina, diventa un po' complicato trovare un linguaggio simbolico comune, che non sia effimero, che vada un po' al di là dell'allusione a uno slogan pubblicitario o alla moda del pulcino pio. 800240024. Avete dei ragazzi a scuola? Cosa vi dicono dell'ora di religione? Come vivono l'ora di religione? Quale memoria avete dell'ora di religione? Cosa sapete dell'ora di religione? Siete convinti che l'ora di religione comunque sia un'istituzione intoccabile, intangibile, indiscutibile, o comunque anche in quello spazio dedicato a una parte fondamentale della nostra cultura, di cui anche gli stranieri, anche gli immigrati debbono comunque avere una conoscenza, vada gestita in una maniera diversa rispetto a quella che è gestita oggi? Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Stefano Morigi è un autore delle edizioni San Paolo, per cui ha scritto la scuola School Rock, la scuola spacca, con Antonio Incurvaia, la collaborazione artistica di Frankie Energy. È un filosofo della scienza, è un saggista, è un caro amico. Stefano, qual è il tuo punto di vista, visto che in questo momento ti stai occupando di scuola? Il mio punto di vista è anzitutto chiedersi quale sia il vero compito della scuola. Per essere subito chiari, io non credo, nel rispondere alla tua domanda, che la scuola debba salvare l'anima di nessuno, né dei credenti né dei non credenti. Io credo che la scuola debba fornire gli strumenti, tutti, per capire una società sempre più complessa e per dare alle nuove generazioni quelle capacità critiche che li renderanno cittadini del loro paese e del mondo, possibilmente. Detto questo, tra questi strumenti ci sono anche le religioni, senza cui certo non si capiscono i popoli, le tradizioni, le abitudini, le consuetudini, ma fare di una religione uno strumento, come ho letto su alcuni giornali di questi giorni, ieri in particolare, per formare le coscienze o per salvare le anime, beh, è una cosa che non credo tocchi alla scuola, soprattutto alla scuola pubblica, dove si tratta di formare dei cittadini, e le regole del traffico per formare i cittadini stanno nella Costituzione e in quell'ora dimenticata e molto più maltrattata di quella di religione, che è quella di educazione civica. Ecco, l'educazione civica va insegnata. Di cui nessuno parla e nessuno rivendica una maggiore attenzione. Nessuno più ne parla, invece si parla di... Ma esiste ancora, Stefano, educazione civica nelle scuole? Ma non si fa più, e laddove si fa è ancora più maltrattata e bistrattata, e stiamo qui a tirarci i capelli sulla religione, dove in realtà è uno strumento per comprendere la realtà, e lo dico da non credente, non ho nessuna difficoltà a dirlo, e penso anche che persino coloro che sono definiti come immigrati debbano anche loro capire le tradizioni del paese dentro cui è un vanno. Po' difficile leggere altrimenti tutto il nostro patrimonio artistico e culturale. Tu sì, ti metti di sì, d'accordo, ma il nostro patrimonio artistico e culturale contempla anche un sacco di tradizioni. È vero sì. Gli studenti, se non sa cos'è Davide e Golia, per carità, è gravissimo, ma così come se non ha in testa la mitologia greca e chissà quante altre cose. Insomma, sono strumenti per comprendere la complessità del passato, ma soprattutto per proiettarsi nel futuro. Diciamo la verità, Stefano, se non ci fosse una così forte carica ideologica dietro, sarebbe scontato che la gente dovrebbe studiare Bibbia e Vangelo come studia i classici greci. Però Gianluca, dal mio punto di vista, è il fatto che quando si parla di solito di radici o nella fattispecie di ora di religione, si sta formalmente parlando della comprensione di un passato che tutto ci riguarda, ma in realtà si sta decidendo in maniera più o meno larvata cosa vogliamo essere in futuro. Allora, in realtà la discussione sull'ora di religione, sulle radici dell'Europa, eccetera, eccetera, tutti i discorsi che si tengono l'uno con l'altro, riguardano più il futuro che il passato, e se riguardano il futuro significa che bisogna ripensare in relazione a questo anche il ruolo della scuola, che per me non può essere quello della formazione ideologica, qualsiasi sia l'ideologia, delle coscienze, ma, come dire, l'aiuto a formare cittadini che conoscano le regole del traffico. Perfetto, cioè fermati un attimo Stefano, fermati un attimo, perché così articoliamo il dibattito. Oggi sulla stampa Fabio Martini intervista il ministro Andrea Riccardi, ministro per l'integrazione, che dice: l'insegnamento è stato scelto da 635.000 studenti, l'89,8% del totale, quindi è sbagliato sovvertire la nostra storia. Questo immagino che sia anche l'opinione di Orazio Ruscica, che è insegnante di religione e presidente del sindacato autonomo degli insegnanti di religione, SNADIR. Ruscica, buongiorno. Buongiorno. Lei rappresenta sindacalmente tutti gli insegnanti di religione? Beh, diciamo di sì, più di un terzo. Ma come venite scelti voi? Siete volontari? Vi scelgono a seconda, diciamo... No, ma guardi... Lo può far chiunque l'insegnante di religione? Certo, chiunque abbia un percorso di studi adeguato. Ma anche un separato divorziato? Come? Un divorziato può fare l'insegnante religione? Un requisito indispensabile per essere riconosciuto idoneo a impartire l'insegnamento della religione è anche quello di una congruità con la testimonianza di vita cristiana. Quindi non è un'ora di insegnamento di cultura religiosa, ma è un'ora confessionale a tutti gli effetti. Mi sembra che questo passaggio sia forzato. Lei sta dicendo soltanto che una separata, siccome non può insegnare religione, allora diventa ideologia. Che vuol dire? Mi scusi, noi qui abbiamo insegnanti di religione preparatissimi, perché fanno un percorso di studi teologico di livello universitario, tant'è vero che lo Stato italiano riconosce la licenza in teologia equipollente a una laurea civile, e questi insegnanti hanno bisogno, per poter impartire, dato che è un insegnamento cattolico, ovviamente una idoneità ecclesiastica. Tutto qui. Insomma, no, ma io non critico. Insomma, ora è semplicemente, mi scusi, questo deriva da un doppio concordato, questo accordo. È così, chiaro che sia così. Però su questo vorremmo discutere, se deve essere un insegnamento che apre la cultura, scusi, no, poi dopo la lascio parlare, che apre anche agli stranieri conoscenze profonde della nostra cultura, delle nostre radici cristiane, perché non può insegnarlo Morigi, che è un mangiapreti, però ha studiato anni in varie università europee anche la religione, anche la storia della religione. Noi abbiamo qui un insegnamento che ovviamente è concordatario per il semplice motivo che viene affidato alla Chiesa Cattolica e riconosciuto un fatto indubitabile, che il patrimonio storico del popolo italiano è, come dire, intriso di qualcosa che è riconducibile, ma direi anche la nostra Costituzione riconducibile al cattolicesimo, tant'è vero che non so, anche a livello di patrimonio morale di ciascuno di noi, non uccidere, non fare ad altri ciò che non vorreste. Anche un ateo può essere convinto di questo. No, mi scusi, queste cose, l'uomo ha una dignità non discutibile, la terra deve nutrire tutti coloro che abitano. Perfettamente d'accordo, perfettamente d'accordo. Questi sono concetti che derivano dal cristianesimo e dal cattolicesimo in particolare. Quindi sono diventati adesso un patrimonio storico del popolo italiano. Quindi questi principi sono riconducibili ad una confessione cristiana, che è il cattolicesimo. E semplicemente lo Stato italiano, la nostra Repubblica, riconosce che questi principi sono, ripeto, riconducibili al cattolicesimo e quindi vanno proposti. Ma vanno proposti in che modo? E vengo alla sua domanda di poco fa. In modo ideologico? Assolutamente no, tanto è vero che sia il concordato sia le intese che si sono susseguite in questi anni nient'altro hanno fatto che affermare prima di tutto i motivi per cui c'è l'insegnamento della religione, che vale la cultura religiosa. Mi fa un esempio, cosa si insegna, qual è il programma? Qual è il programma? Che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. Sì, vorrei sapere, scusi, ci fermiamo sulla... Abbiamo capito perfettamente, l'ora di religione è affidata a persone che devono avere un imprimatur comunque ufficiale per poterlo insegnare, questo è chiaro. Non sono molto d'accordo, perché se... religione potrei insegnarla anch'io, perché ho studiato, potrebbe insegnarla chiunque, e potrei avere una vita dissoluta e comunque insegnare perfettamente quello che è tutto l'aspetto storico profondo della metafisica cattolica. Però detto cristiana. Però detto questo, vorrei sapere com'è il programma, qual è il programma, cosa si insegna? Il programma, ad esempio, è un insegnamento che permette di affrontare, permette agli studenti di confrontarsi con il cristianesimo e le altre religioni, il cristianesimo e gli altri sistemi di significato, e ha come obiettivo non quello della fede, ma quello di permettere ai nostri studenti di avere una conoscenza, un sapere religioso che permetta loro di dialogare in modo autentico e costruttivo. Mi sembra chiaro, fermiamoci un attimo. Questo, Giuseppina, un attimo solo, Ruscica, un secondo. C'è un'ora. Giuseppina, buongiorno, sentiamo qualche ascolto. Sì. Giuseppina. Buongiorno a voi. Sì. Ecco, io sono la mamma di una ragazza di 14 anni, come sa l'ora di religione può essere scelta o no, sì. E io ho scelto... Lei tranquillamente ha scelto l'ora di religione nei 3 anni di scuola media e adesso all'ingresso al liceo. Io penso che è sicuramente un insegnamento valido se viene fatto così come è stato fatto nella scuola di mia figlia, come studio anche delle religioni, conoscenza degli altri testi religiosi, approfondimento, e soprattutto non bisogna assolutamente confonderlo con il catechismo, l'ora di religione che viene fatto a scuola. Lei, comunque, la sua esperienza quindi è positiva? È positiva. Ma io infatti non sono qui per capire, positiva. Non è che ho posizioni preconcette. Paolo, buongiorno. Anche a lei, Nicoletti, buongiorno. Ascolto, Paolo. Io sono un padre di 3 figli, siamo di origine moldava, comunque la regione ortodossa. Comunque, ma io, guarda, che sono sempre d'accordo per la ora delle regioni nelle scuole, perché lo so di preciso che noi impareranno i miei bimbi di andare a ammazzare, di andare a rubare, di andare... E sempre ho detto, dovete andare a studiare, non importa che la religione è cattolica, cristiana, perché non ho mai sentito mai una religione, può darsi ci sono, ma non li conosco io, che ti dicono dovrei andare a ammazzare, dovrei andare a rubare, dovrei andare a parlare bugie. Perciò io sono d'accordo sempre, comunque io non credo che così lontano... Sì, sì, ortodosse... ma... Paolo, calmo, non mantenga la calma. Non stiamo... Sì, sì. Allora, lei è ortodosso, i suoi figli ortodossi vanno all'ora di religione e non trovano nessun problema a seguire un insegnante di formazione cattolica che loro insegna la religione. Quindi vuol dire che è accettato questo principio che noi stiamo pensando di apertura e di lettura neutra comunque della storia e della conoscenza della religione. Mi sembra chiaro. Gaetano. Sì, buongiorno. Senta, io sono d'accordissimo con il signore che ha parlato proprio prima. Io sono d'accordo. Quale signore? Ha parlato di signore ortodosso, il signore che ha il moldavo, sì. Il moldavo, esattamente. Cioè, perché noi stiamo confondendo l'ora di religione con il catechismo. Cioè, l'ora di religione non è un'ora di invogliare alle altre persone, diciamo, di religione diversa, per invogliarle alla nostra religione. Per fare adepti, diciamo. Ecco, ecco. Noi siamo un popolo italiano, il popolo italiano è caratterialmente di religione cattolica ed è giusto che noi rispettiamo la nostra religione ed è più giusto ancora che gli altri di religione diversa rispettano la nostra. Cioè, è impossibile, è inaccettabile che noi dobbiamo togliere il crocifisso delle nostre scuole. Adesso sta allargando, guardi. No, ma è giusto. Inaccettabile, è giusto. Invece, guardi, sono perfettamente d'accordo, dico che chi ha una visione religiosa è giusto che abbia tutti gli strumenti per approfondirla, per praticarla, ma in maniera anche radicale, totale, assolutamente, ma non può essere un'imposizione a chi non ha questa visione della vita, semplicemente questo, non può essere forzato nessuno a farlo. Detto questo, nessuno deve avere limite nel potersi esprimere, questo è semplicemente il punto. Beh, vedo che il problema di religione è un problema molto sentito, non è superficiale, non è secondario. Raramente vedo un fiorire così intenso di messaggi sul profilo Facebook Melog Radio 24. C'è un dibattito aperto, civile, però aspro, dai toni accesi, quindi visceralmente sentito. Vedo tantissimi SMS, che di solito è la forma di partecipazione più virulenta e più qualunquista, invece molto ben articolata. Vedo che comunque è un tema di cui vale la pena di discutere. 800 24 00 24, partiamo da la timida proposta, aveva fatto il ministro Francesco Profumo, subito costretto a fare un passo indietro e dire ma ripensiamo all'ora di religione, fatta così ha senso, magari dovrebbe essere qualcosa di diverso da quello che immaginiamo. Tutti no, fermi, non si tocca qua e non si tocca. Beh, questa mattina vediamo che in realtà le opinioni su questo sono molto interessanti, anche se molto manichee, molto antitetiche. Bruno, buongiorno. Buongiorno, senta, io do ragione al ministro Profumo, perché effettivamente bisogna considerare questa società multietnica, multiraziale. Io faccio l'autista di autobus, in pratica porto in giro i ragazzi di scuola e a volte ho più ragazzi stranieri che non, voglio dire, italiani. Quindi io sostituirei semplicemente la lettera E nella parola finale di religione con la lettera I, ecco. Solo questo. Quindi adesso, diciamo, quindi, un'ora di storia delle religioni, di approfondimento, esatto, del pensiero religioso, sì, in generale. È la cosa più democratica che si possa fare, secondo me. Quindi, però, non necessariamente questo deve essere fatto da persone che abbiano l'imprimatur della Conferenza Episcopale Italiana, perché a questo punto dei bravi docenti di storia delle religioni, di storia del pensiero religioso, insegnano quello che è lo svilupparsi dell'idea metafisica e dell'assoluto nella storia dell'umanità. Giuliana. Buongiorno. Io chiamo da Como, ho 4 figli, 3 frequentano una scuola pubblica ad altissimo tasso di studenti stranieri. Siamo con la più piccola, che è in prima elementare, al 20% di bambini italiani. Molto forte la presenza della comunità turca. E c'era stato un grosso problema, soprattutto nel ciclo precedente, perché tantissimi bambini appunto non si avvalevano dell'ora di religione. Questo comportava anche un problema logistico. Dove si mettevano? Infatti, che facevano? Appunto, non puoi spostare 15-20 bambini per volta in altre classi, insegnanti disponibili non ce ne sono mai. Beh, l'insegnante che aveva mio figlio prima, che fortunatamente ha preso la piccola ora, ha convocato tutti i genitori, interpreti compresi, ha spiegato loro che nessuno mai avrebbe chiesto ai loro figli di recitare il Padre Nostro, tantomeno di andare in chiesa, ma siccome le vacanze di Natale, di Pasqua, l'Immacolata e tutto quanto le fanno, loro devono sapere per quale motivo la nostra scuola, il nostro paese si ferma e tutti noi festeggiamo. Questa è una questione di conoscenza e di rispetto. Ha spiegato ai bambini che cos'è il Ramadan, ha spiegato la differenza della Pasqua ebraica, ha spiegato tante cose e nessuno si è lamentato, anzi abbiamo visto grosso passo in avanti di questi bambini. Lei dice Giuliana, se tutti gli insegnanti fossero così non staremmo nemmeno qui a parlare di questo problema. Assolutamente. Poi su come vengano preparati e selezionati, forse dovremmo parlare di come vengono preparati e selezionati tutti gli insegnanti. Quindi questo forse è un problema, non è un problema, è un problema che... Comunque è questo vale, secondo me, vale anche per tutte le altre discipline. Hassan, buongiorno. Sì, buongiorno Nicolette, ti ringrazio veramente per questa parola. Ascoltami, io partivo prima, che io sono d'accordissimo... Lei, Hassan, è di origine? Io sono di Senegal, io sono di origine senegalese, però sono musulmano, praticante anche. Però praticamente io accetto che la religione è una dottrina sociale, socioculturale, che ogni essere umano deve studiare. Non ha senso di essere né musulmani, né cristiani, né ortodossi. Perfettamente d'accordo. È una dottrina socioculturale. Per esempio, tutti noi dobbiamo sapere cosa c'è dentro. Per esempio, io sono musulmano, leggo anche il Bibbia perché voglio sapere cosa c'è dentro. Perché deve saperle, deve saperle. Io vado altro di là, per esempio, io non accetto come che tanti gente non riescono a capire che l'Italia non è un paese cristiano, è un paese laico. Come io vengo dal paese laico come il Senegal, che io condivido cristiano, musulmano, tutti condividiamo insieme. Allora Hassan, lei cosa si aspetterebbe per un suo eventuale figlio, non so se lei ha figli a scuola? Io ce l'ho figlio, per esempio, però io li lascio studiare perché... Quindi lei ha lasciato suo figlio che seguisse l'ora di religione? Certo, perché li aiuta a sapere la dottrina socioculturale italiana, almeno perché vive qua. Però io non accetto che il crocifisso viene a mettere lì, perché cosa vuoi dire? Te metti il tuo crocifisso perché sei cristiano, io posso mio Corano li metto davanti lì, ma che scuola è? Quindi lei per una scuola laica aperta comunque allo studio della religione, anche quella del paese in questo momento che ospita l'immigrato, perché c'è da essere un giusto confronto. Perché ce lo dico prima, la religione è una dottrina sociale, è una dottrina socioculturale. Mi sembra chiarissimo, Hassan. Io sto notando, fra l'altro, che negli ultimi anni, sono 30 anni che conduco programmi alla radio in diretta con interventi agli ascoltatori, è altissimo il tasso di ascoltatori che appartengono ad altri popoli, ad altre etnie, ad altri punti di vista, ad altre visioni della vita. Ogni trasmissione c'è comunque qualcuno che parla e porta un punto di vista diverso. Ormai stiamo cambiando profondamente. Lucetta Scaraffia, buongiorno. Buongiorno. Lucetta Scaraffia è una storica giornalista italiana, docente di storia contemporanea all'Università degli Studi Roma La Sapienza. Oggi sul Messaggero ha fatto un pezzo molto interessante, soprattutto perché fatto da una autrice, scrittrice di profonde radici cattoliche. L'ora di religione è meglio obbligatoria. Sintetizza Scaraffia, la ringrazio per essersi fermata con l'automobile solo per partecipare alla nostra trasmissione. È interessante quello che dice lei, perché dice sì, l'ora di religione, ma fatta meglio. È un'ora di casino, è un'ora di passaggio, un'ora non presa sul serio. Finché è facoltativa, i ragazzi la usano per altri motivi, anche copiare i compiti, arrivare in ritardo. Cioè, invece è fondamentale l'ora di religione, anche perché ormai con la secolarizzazione che avanza, diciamo che più della metà dei ragazzi italiani non conoscono nulla del cristianesimo, ma proprio nulla, neanche l'ABC del cristianesimo. Ora, il cristianesimo, al di là della scelta religiosa, è il fondamento della nostra cultura, quindi non capiscono un'opera d'arte, vedono La fuga in Egitto e non sanno che cos'è, non capiscono Dante, Manzoni. Però Scarfia, mi permetta se la interrompo, sì. Ma per insegnare questo è necessario ci sia un insegnante con la coscienza perfettamente candida, quindi che non sia un fornicatore, non sia un divorziato, che non sia, deve essere una persona che deve avere in sé una sorta di aureola che gli viene data dalla conferenza episcopale? Beh, qui si apre un problema. Io penso che l'insegnante di religione deve essere comunque non una persona partigiana, è importante, è molto delicato l'insegnamento della religione, perché potrebbe essere uno fortemente antireligioso e influenzare i ragazzi anche, o fortemente fanatico e influenzare i ragazzi. Lei sarebbe perfetta, ad esempio, Scarafini. Troppo buono. Però lei è una docente universitaria, ha sì, un fiorfiore sì. Di preparazione, bisognerebbe magari... Io non so esattamente bene, quale sia la preparazione. Equilibrio, spiegare l'idea che è una devono dare un insegnamento molto equilibrato, che come diceva prima quel signore che ho sentito, deve essere dato anche ai figli degli immigrati che vengono in Italia e devono capire, speriamo diventino cittadini italiani, devono capire qualcosa della cultura che li circonda, e la religione è diciamo così, la base di tutto, quindi è importantissimo che lo imparino. Quindi quale sarebbe loro. La proposta di Lucetta Scarafia? Maggior qualificazione degli insegnanti di religione? Insegnanti di religione che devono essere anche vagliati dallo Stato, probabilmente, magari con una commissione paritetica con la Chiesa, però non più solo, diciamo così, solo decisi dalla Chiesa, e poi ora obbligatoria, col voto. Col però voto. Almeno con una preparazione che siano capaci di fare una lezione comparativa di tutte le religioni. Sì, certo, sennò, questo sicuramente. Però non posso cadere dal pero se uno shintoista o un musulmano gli fa domande no. sulla sua religione. Ma quello forse anche adesso lo sono. Il problema è, non lo so, sinceramente non glielo so dire, che intanto sappiano bene il cristianesimo, perché i ragazzi devono imparare quello come prima cosa, e anche i ragazzi immigrati devono capire, siamo in un paese cristiano, il cristianesimo è fatto così. Ma quanto cioè, siamo in un paese cristiano, così? Lucetta? Beh, la radice della nostra cultura è il cristianesimo. E la pratica cristiana, Lucetta Scarafia, quanto no, è secondo è lei calata, veramente visceralmente vissuta oggi nella nostra società? Sì. No, è vero che è molto meno vissuta, però la radice culturale è fondamentale per capire come funziona la cultura occidentale. Io continuo a pensare che l'Europa e la cultura occidentale ancora oggi siano figlie del cristianesimo, quindi bisogna sapere qualcosa del cristianesimo. Dopodiché sicuramente è necessario avere un'idea del Corano, dello shintoismo, del buddismo, questo è sicuramente necessario, però dopo che uno ha imparato bene quelle che sono le nostre radici culturali. Certo, il cristianesimo, a prescindere dalla filosofia greca, a prescindere da tutto il pensiero filosofico che sta alla base anche della nostra civiltà, no, non prescinde manca qualche nulla. Gamba se vuole fare una formazione completa. Ma se pensiamo, San Tommaso ha ripreso tutto l'aristotelismo, e Agostino era più neoplatonico, cioè non è vero, il cristianesimo diciamo che si è inserito e ha fatto propria la tradizione antica. Stefano Morigi, filosofo della scienza, in ascolto finora, cosa dici rispetto a quello che ha aggiunto al nostro dibattito Lucetta Scarafia? Beh, sono intanto d'accordo su un punto, cioè che il fatto che gli insegnanti di religioni siano scelti, valutati esclusivamente da autorità, diciamo così, ecclesiastiche, lo trovo perlomeno bizzarro. Non condivido il fatto che un insegnante di religione è valido se per ciò stesso conduce una vita conforme all'etica religiosa, altrimenti voglio dire ogni teologo dovrebbe essere per ciò stesso un credente, noi sappiamo benissimo che non è così, e viceversa ogni credente dovrebbe essere un teologo e sappiamo altrettanto bene che non è così, lo diceva la professoressa, no? Che molti, e non solo tra i giovani, anche tra gli adulti che sedicenti cattolici sono profondamente ignoranti sulla religione o sull'identità che poi si trovano a difendere così animosamente quando emergono polemiche di questo tipo. Invece sono leggermente in disaccordo con la professoressa quando lei parla di nostro, cioè il nostro paese, la nostra cultura. Ho detto, sono convinto, sarei stupido a negarlo, che il cristianesimo ha segnato profondamente l'Italia, l'Europa, il mondo, ma in quel nostro, e qui non mi riferisco alle parole della professoressa, ma nell'uso più diffuso che viene fatto, c'è un pericolo, un pericoloso rischio ideologico che sovrappone la morale al diritto. Perché è vero, è che quello che avevamo detto all'inizio della trasmissione, tutto va bene purché non si intravede dietro questo il voler mantenere comunque delle posizioni, ecco. Questo è chiaro, perché hai sentito l'ascoltatore senegalese, musulmano, figurati, manda senza nessun problema la figlia all'insegnamento di religione, perché dice sì, è giusto che impari queste cose, però probabilmente non fino in fondo sa e comprende che quell'insegnante è un insegnante con un preciso imprimatur, che oltre quello in realtà non potrebbe andare. Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, io sono un insegnante di ora alternativa all'insegnamento alla religione cattolica e svolgo questa attività nella scuola pubblica statale da 4 anni. Quindi mi sorprende molto che il ministro Profumo esca con dei proclami non conoscendo quelli che sono i regolamenti che già sono posti in essere. Ce li ricordi, Paolo? Allora, quando lei, Gianluca, c'ha un figlio e va a iscrivere la scuola, la segreteria le sottoporrà un modulo e dirà: vuole iscriversi all'insegnamento della religione cattolica, vuole fare l'ora alternativa, vuole fare l'uscita anticipata. Allora proprio la dicitura è l'insegnamento della religione cattolica. Sì, sì, sì, questo assolutamente. Quindi non ci prendiamo in giro, non è storia delle religioni, è insegnamento della religione cattolica. No, basta perdere le cose. Per carità. Ora, l'ora alternativa è da molti anni, io ho lavorato quest'anno al liceo Virgilio di Roma e tante altre istituzioni, che non cito perché sono troppe, che ci chiamano da altre graduatorie. Io sono un insegnante di linguaggio e tecnica cinematografica del Rossellini, di fotografia del Rossellini, siamo diventati sovrannumerari lì, adesso non voglio annoiarvi con queste questioni. No, no, vabbè, abbiamo capito, vi rimpiegano per fare l'ora alternativa. E lei cosa insegna in questa ora? Allora, al Virgilio fotografia. Quindi i ragazzi che, come diceva il ministro, stanno in giro per la scuola, non è a Fabrizio Intonti, dietro il vetro della regia, si apre un orizzonte, che è un noto fotografo. Certo, ma perché non lo sanno? Perché i presidi, purtroppo, e qui è importantissimo dire queste cose, credono che ci siano dei costi in più per le scuole. Non è vero, noi veniamo pagati dal ministero. Quindi non è vero che i ragazzi vanno per i corridoi a far casino, fanno l'ora alternativa, dovrebbero fare l'ora alternativa. Esatto. Ora io sto diffondendo questa questione che mi interessa personalmente, è ovvio, faccio i miei interessi, è chiaro, non è che sono buono, non voglio andare in giro a dire che l'ora alternativa è una cosa meravigliosa, poi può capitare il collega bravo e quello meno bravo. Però i ragazzi, non sempre fotografia l'ora alternativa, magari... No, c'è musica, al principio si fa fotografia e musica. Fotografia e musica. In altre istituzioni si fa linguaggio e tecnica cinematografica, si fa cucina, cioè i presidi... Quindi cose abbastanza interessanti per i ragazzi. Attenzione, devono essere una materia, la legge dice di quest'anno, l'ultimo regolamento che forse è il caso che Profumo si legga, dice che devono essere delle materie extracurricolari, ma che comunque possono essere legate al lavoro che gli insegnanti svolgono. Io, essendo anche un insegnante di storia e di italiano, che cosa faccio? Vado a fotografare per esempio l'Ara Pacis, porti i ragazzi al Virgilio a fare le foto all'Ara Pacis o a Villa Farnesina e parliamo di storia dell'arte. I monumenti del pensiero laico, l'Ara Pacis. L'Ara Pacis, certo, che è giustamente monumenti che sono anche legati comunque alla nostra storia profonda. Fermiamoci un attimo con Paolo. Orazio Ruscica, insegnante di religione, presidente del sindacato autonomo degli insegnanti di religione. Ha sentito l'articolarsi del dibattito, vorrei che però d'altronde è molto più articolato e molto più complesso di quello che è stato sintetizzato da molti giornali, come vede. Sì, ma infatti io sono davvero contento di questa discussione che si evolve in modo positivo. Vorrei precisare alcune cosette. Secondo me il ministro ha fatto quell'affermazione senza aver letto con attenzione ciò che ha firmato il 28 giugno scorso. Che ha firmato il 28 giugno scorso? L'intesa che stabilisce nuovi programmi, la traduco così, per l'insegnamento della religione nelle scuole secondarie superiori. E in questo documento c'è scritto che bisogna impartire un insegnamento della religione rispettoso delle altre culture, cioè cristianesimo e altre religioni, cristianesimo e altri sistemi di significato. In sintesi cosa mi traduce questo però? Allora, evidentemente non l'ha letto bene. Ma infatti è stato subito bacchettato e ha fatto subito un passo indietro. Ha detto no, certo, scherzando. Perché secondo me è strana la cosa, cioè l'affermazione, perché l'aveva già detto la stessa cosa venerdì scorso a un convegno. Sì, ma adesso Lucica, del ministro. Il ministro ormai ha fatto ammenda, non ne parlerà mai più, ha capito che è un argomento che è meglio che non lo tocca. Però noi abbiamo voluto per questa ragione parlarne questa mattina. Lucetta Scaraffia. Ma io penso che sia molto grave che non si debba toccare questo argomento. Infatti io siamo qui questa mattina per toccarlo. State benissimo a parlarne, dobbiamo discuterne tutti, non è che chi tocchi fili muore. Cioè, e secondo me Profumo ha fatto benissimo a dire quello perché aveva un'idea, niente di male, uno può discuterla. Oltretutto c'è una grande differenza fra gli accordi che vengono firmati e la realtà, io insisto su questo punto. Anche a proposito del docente che diceva che faceva le ore alternative alla religione, non sono tante le scuole che hanno le ore alternative alla religione. Mia figlia ha seguito delle scuole nel centro di Roma, non ha mai avuto ore alternative alla religione e sempre i ragazzi entravano tardi o uscivano prima. Perché lei non la mandava a lezione di religione? No, lei è andata a lezione di religione, dopodiché si è stufata perché non si parlava mai di religione, ma si parlava appunto di sesso e droga. E allora, cioè, allora di religione si parlava di sesso e droga? Ma per forza, perché i poveri professori, per attirare gli studenti, perché devono ottenere il consenso, quando un'ora è... E che fanno un'ora a luci rosse per far venire gli studenti? No, dicevano parliamo dei vostri problemi. Immaginate che sono naturalmente sesso e droga. Sesso e droga. Allora, mia figlia un po' si è scocciata, ha detto mamma, non sono stufa. Poi chi non un po' facevano i compiti, erano delle ore assolutamente mal combinate. Io penso che questo e le ore alternative in moltissime scuole, moltissime non esistono. Quindi Lucetta Scaraffia, tanto ti saluto perché la sigla ci porta via. Ringrazio anche Stefano Morigi per il suo contributo, ringrazio Ruscica. Alla fine abbiamo fatto bene a risollevare il problema, perché non possono esistere argomenti che si dice no, qua non si tocca, ormai è deciso. No, non è deciso per niente, vale sempre la pena discutere sopra. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Valerio Rocchetti, a domani.